Before the next dialogue between Lorenzo and Sarah, here's some new language. Once again. Ascolti e ripeta. Cominciamo. Incredibile. Unbelievable. Incredibile. Intelligente. Intelligent. Intelligente. Che ore sono? What's the time? Che ore sono? Le sette. 7 o'clock. Le sette. Se. If. Se. Troppo. Too or too much. Troppo. Ceniamo. We have dinner. Ceniamo. Insieme. Together. Insieme. A quick test now on that new language. As usual, listen to the English, say the Italian in the pause, and after you hear the correct answer, repeat it. What's the time? Che ore sono? 7 o'clock. Le sette. If. Se. Unbelievable. Incredibile. Together. Insieme. Intelligent. Intelligente. Too or too much. Troppo. We have dinner. Ceniamo.